Diari di quarantena, prima puntata, aprile 2020. Emergenza sanitaria, Covid-19. Da racconto autobiografico alla poesia. In questi giorni di distanze e affinità virtuali, restiamo uniti nell'attesa di ritrovare noi stessi, per poi ritrovarci come collettività. Diari di quarantena, prima puntata. Aprile 2020. Emergenza sanitaria, Covid-19. Emergenza sanitaria, da racconto autobiografico alla poesia. Da racconto autobiografico. In questi giorni alla poesia. Di distanze e affinità virtuali, restiamo uniti nell'attesa di ritrovare noi stessi, per poi ritrovarci come collettività. Emergenza sanitaria, Covid-19. Da racconto autobiografico alla poesia. In questi giorni di distanze e affinità virtuali, restiamo uniti virtuali nell'attesa di ritrovare noi stessi, nella poi ritrovarci come collettività. Autobiografico alla poesia. In questi giorni di distanze e affinità virtuali, restiamo uniti nell'attesa di ritrovare noi stessi, per poi ritrovarci come collettività. Covid-19. Da racconto autobiografico alla poesia. In questi giorni di distanze e affinità virtuali, restiamo uniti nell'attesa di ritrovare noi stessi, per poi ritrovarci. Benvenuti e benvenute qui su Radio Forte per la rubrica Diari di quarantena, lo spazio dedicato a tutti coloro che vogliono esprimersi, rompendo questi muri di distanze e di silenzio, entrando in contatto gli uni con gli altri. Vogliamo ascoltare i vostri pensieri, i vostri racconti, le vostre poesie o semplicemente poter comunicare insieme per trascorrere al meglio questi giorni chiusi in casa. Ciao a tutte le compagne e a tutti i compagni che ci stanno ascoltando e supportando in questi giorni. Ho pensato che la nostra radio possa aprire uno spazio dedicato alla poesia, che è una dimensione di grande ricchezza espressiva e riflessiva. Penso quindi che la poesia, così come anche il racconto narrativo, possano essere compagni essenziali in questo momento storico particolare che stiamo vivendo. Sarà questo uno spazio in cui leggere poesie o contributi narrativi. Chiunque vuole potrà inviarle in forma scritta o registrarle, così da poter ampliare questa rubrica come una sorta di diario fatto di vite, riflessioni e pensieri intrecciati tra loro, che, accompagnati dalla musica, si fondono assieme in un unico abbraccio. A questo proposito, voglio mettervi al corrente di un'iniziativa molto bella nella nostra zona. In via Castelforte 4, all'interno della Casa del Popolo di Villa Cordiani a Roma, c'è un piccolo teatro, il Teatro della Parola. In esso si svolge da alcuni anni una bellissima esperienza di laboratorio di lettura e scrittura poetica animata e guidata dal poeta Giuseppe Spinillo. L'isolamento domiciliare non ha impedito di continuare il percorso attraverso la chat. Cercherò quindi nelle prossime puntate di coinvolgere direttamente i poeti e le poetesse del piccolo teatro della parola per comunicare ed entrare in contatto più a fondo con il loro progetto e poter ascoltare qui in radio le loro poesie. Intanto ascoltiamo insieme questa bellissima poesia di Manuela Stella. Vorrei capire la forza del bocciolo, quando nel dormiveglia muove e preme verso il nuovo equilibrio. Non c'è parola, ma ombra di parola, nel quid del silenzioso aprirsi, gratuità di immagine che irrompe come urlo di vita. Sorridente, in fondo so che tutto ripetersi di niente. Sempre più a folla.